Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Luigi aspettava tutte le mattine seduto sui divanetti dell'ingresso. Il cantiere del giardino iniziava alle 7.30 e nel freddo mese di febbraio io facevo capolino in struttura prestissimo. Era là, ad attendermi all'interno dell'edificio. Sono Monica Botta, sono di Novara, mi occupo di verde terapeutico, in particolar modo di progettazione di giardini terapeutici per persone fragili e devo dire che ho il pollice o forse più probabilmente la luce verde. Non lo disse ad alta voce perché sapeva che a dirle le cose belle non succedono. Buongiorno a tutti, sono le 16 e 9 minuti, questa è Radio 24, il programma è Voi Siete Qui. Io sono Matteo Caccia, oggi però cominciamo con una citazione da Il Vecchio e il Mare di Ernest Hemingway che Monica stessa cita alla fine della sua storia per raccontare di un rapporto che lei ha con un signore che incontra, come diceva prima lei, in un giardino terapeutico che poi le chiederemo esattamente che cos'è. Uno di questi giardini che lei stava progettando e questo signore lo utilizzava perché era ospite di questa struttura. Ma vi ripeto la frase, non lo disse ad alta voce perché sapeva che a dirle le cose belle non succedono ha a che fare con il proteggere delle cose a cui teniamo. Se ci sono delle cose che avete protetto nella vostra vita perché ci tenevate troppo e quindi le tenevate per voi, non le raccontavate in giro, e avete voglia di raccontarle, se ancora è così non ve lo chiedo nemmeno. Se invece avete la possibilità di farlo, 349 238 6666, oppure Voi Siete Qui Radio 24 sul profilo Facebook o anche in 140 caratteri su Twitter. Voi Siete Qui R24 oppure sul mio Matteo Caccia su Twitter. Vi ricordo, vi ripeto, qualcosa che avete protetto, che tenevate per voi e adesso invece magari potete raccontarcelo. La storia di oggi appunto parla di questo, parla di un signore che stava seduto in una struttura che incontrava Monica e adesso lo racconterà meglio lei. A luglio invece, come vi preannunciavo in questi giorni, cominceremo una sorta di serie di puntate a tema, e quindi io vi propongo il tema e se voi avete voglia di raccontarci storie su questi quattro temi ne scegliete uno e ci inviate una storia che abbia a che fare con i mondiali di calcio che si giocano quest'anno ma che avete vissuto magari negli anni passati, una storia di guerra perché ricorre il centenario dell'inizio della prima guerra mondiale e quindi se avete delle storie di parenti, nonni possibilmente o zii o genitori che l'hanno vissuta, potete raccontarceli e le raccontiamo quest'estate, oppure storie di viaggi, queste ogni tanto le chiediamo in maniera più frequente, o storie di avventure vere proprio, cioè qualcosa di avventuroso che vi è capitato di vivere magari consciamente, magari inconsciamente, magari l'avete cercato, magari no. Raccontateci una di queste storie, una di queste quattro categorie di storie inviandocela Voi Siete Qui @radio24.it e noi ci facciamo una bella estate con Voi Siete Qui. Vi ricordo di nuovo invece che oggi raccontiamo una storia un pochettino più labile, un pochettino più inafferrabile, perché ha a che fare con le cose non dette. E la figura che ci presenta Monica, la figura di Luigi, è davvero sfuggente da questo punto di vista, quindi prendetevi 5 minuti per ascoltare questa storia, perché spesso Luigi ricorda delle persone che magari ci sono vicine. Prima di cominciare devo chiedere scusa a tutti i botanici all'ascolto, perché Monica fa un elenco di piante, per lo più in condizione latina ovviamente, che io leggerò malissimo. Chiedo scusa a voi, chiedo scusa anche a quelli che comunque le avrebbero lette come me, e più tardi lei ce le racconterà meglio. Luigi aspettava tutte le mattine seduto sui divanetti dell'ingresso. Il cantiere del giardino iniziava alle 7.30 e nel freddo mese di febbraio io facevo capolino in struttura prestissimo. Era là ad attendermi all'interno dell'edificio. Poi nei mesi successivi, con l'arrivare della primavera, si sistemava su una panchina fuori a prendere i raggi di un tiepido sole. Odiava stare rinchiuso tra quattro mura e non mancava di dirlo. Quando entravo mi accennava un sorriso quasi svogliato, ma vedevo che aspettava quel momento, quell'incontro mattutino di scambi. Io gli andavo vicino, chiedendogli come andava, e iniziavano così quei 10-20 minuti rimasti indelebili nella mia memoria. Assonnata gli raccontavo dei lavori che si stavano facendo per sistemare il giardino terapeutico della casa di cura dove lui e altri anziani soggiornavano. Lui non era interessato al verde o alle piante. A me dei fiori non me ne frega niente, mi diceva, e non mancava di ribadirlo tutte le volte. Insomma, aveva decisamente parecchio tatto. Il mio lavoro all'interno di questo giardino era la direzione lavori a seguito di una progettazione proprio di quello spazio. Per lui erano un di più, non necessarie. Non aveva tempo di stare a guardare i colori e le varie specie. A lui piaceva stare all'aperto, a farsi abbrustolire, basta, nient'altro. Solitamente mi intrattenevo per spiegargli cosa stavano facendo i giardinieri, insomma, per renderlo partecipe. Ma nonostante il suo disinteresse, nei 3 mesi di sistemazione dell'area, lui non mancava di essere attento osservatore di quei lavori. Quando gli raccontavo, lui ascoltava, ma non faceva domande. A volte vedevo che scalpitava affinché finissi di raccontare, per poi iniziare a parlare lui. Mi raccontava qualche storia di un suo passato nomade, qualche bizzarro evento che aveva segnato la sua vita in un posto esotico, su di una spiaggia assolata sulle coste francesi. Era stizzito però se gli domandavo, aveva un suo rigore nel raccontarmi e non potevo interromperlo. Luigi era un signore ultra ottantenne celibe, non si era mai sposato, o almeno così mi raccontava. Un uomo stravagante, un grande viaggiatore, appassionato di canzoni, di poesia e di astrologia. Sicuramente aveva avuto diverse donne, trapelava ogni tanto nei suoi racconti. Nei nostri incontri mattutini non mancava puntualmente di recitarmi qualche poesia a memoria. I nostri incontri ultimavano con richieste singolari, alle quali, con non poche difficoltà, non potevo sottrarmi. Il suo buongiorno così unico era surreale. Tutte le volte mi chiedeva di cantare con lui qualche canzone in francese, in inglese o in portoghese. Ne aveva 3 o 4 tra le sue preferite, o forse conosceva solo quelle. Ma le cantava con una bella voce, intonata. Ed è così che la Via in Rose è diventata la colonna sonora dei miei mattini nel cantiere di questo primo healing garden della mia vita professionale. La Via in Rose, cantata a 2 voci nell'atrio della struttura sanitaria alle 8 del mattino, da un anziano gentiluomo e da un'architetta alle prime armi. Tu me prends dans ses bras, tu me parles tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Quando poi le giornate si erano allungate, questo momento di incontri l'avevamo trasportato all'esterno, su una panchina vicino all'area cantiere. Luigi proprio non ce la faceva a stare rinchiuso. E forse fuori le nostre cantatine avevano anche un sapore migliore, fatto di profumi di terra, di campagna. Nonostante le sue ritrosie con i suoi racconti sulle sue vacanze europee e non solo, trascorse al mare o immerso nella natura, Luigi è diventato il primo vero fruitore del giardino appena risistemato. Ma soprattutto è stato il collaudatore ufficiale di tutte le panchine poste lungo il percorso sensoriale. A suo dire però non era interessato alla nuova introduzione di alberi di liquidambar stiraciflua, di cui gli avevo raccontato tingersi le foglie di porpora, rosso, arancio, giallo durante l'autunno. Oppure ai bellissimi ginkgo biloba dalle foglie a cuore. Neanche il racconto del fatto che il ginkgo biloba è un fossile vivente ed è l'unica specie sopravvissuta alla bomba di Hiroshima. Ecco, neanche quello l'aveva incuriosito. Non avevano avuto alcun effetto rilassante su di lui la lavanda, il rosmarino, la salvia, l'origano, le altre erbe aromatiche messe apposta nelle bordure lungo il percorso per stimolare i sensi tattili, visivi, ma soprattutto olfattivi. La fioritura copiosa di azalee, rododendri e delle camelie lo avevano lasciato del tutto indifferente, o almeno così diceva. Avrebbe potuto starsene ancora su di una panchina fuori, dal verde, sull'asfalto, tanto a lui non cambiava nulla. Questo sempre diceva. Io non ne sono mai stata così tanto sicura. Guai però a dirgli che stava ammirando qualcosa. Si ritraeva, rispondeva in malo modo. Luigi era un signore introverso, molto particolare, tendeva a stare sempre per i fatti suoi e appena poteva usciva in giardino. Si sedeva in giardino sulla panchina rivolta verso le nuove eriche rosa e bianche, si guardava in giro, spesso rivolgendo la faccia verso il sole o fissando un punto tra la vegetazione. Trovava ristoro contemplando quello che gli stava attorno, assorto nei suoi pensieri, nella sua meditazione, in una totale privacy che si faceva fatica di interrompere. Non gli si avvicinava mai nessuno, pena qualche burbero rimprovero. Nel verde lui ci stava bene, ma da solo. Chissà, forse contemplava un verde nel ricordo di quei bagni di sole al mare sdraiato sulla sabbia. O forse più semplicemente era come una lucertola che amava farsi diventare il sangue caldo. Oggi Luigi non c'è più. Ha trascorso qualche anno nella struttura. Ha fatto tribolare per il suo caratteraccio burbero e spigoloso, ma tutti sapevano che per farlo stare buono bastava che lo lasciassero andare in giardino. Lì recuperava il suo rapporto con la natura e non doveva rispondere a domande o essere costretto a relazionarsi con il mondo. Il suo approccio con il verde, con l'aria, con il sole era così forte e prepotente che tutto il resto per lui era costrizione, anche i vestiti. Oggi, quando in estate ripasso davanti a questo giardino terapeutico e vedo le masse di rose rosa, rosse, bianche, lì, ai limiti dell'area, il ricordo va a quel primo scettico visitatore. Ma come non mi abbia mai fatto un complimento su come era cambiato lo spazio dopo la sistemazione, a quelle dediche di bizzarre poesie e di previsioni astrali sempre uguali, a quel foglietto su cui, in bella calligrafia, mi ha dedicato una poesia che ancora conservo, al fatto che sono dell'acquario, ascendente pesci, e che secondo lui il mio era un bruttissimo segno, a come alla domanda se era felice per quel giardino progettato anche per lui, non mi disse mai nulla. Almeno non lo disse ad alta voce, perché forse sapeva che a dirle le cose belle non succedono. Ai che disgrazia, esta sorte che mi assiste. Ai, mas che sorte eu viver tão desgraçada. Na incerteza que nada mais certo existe, além da grande certeza de não estar certa de nada. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ha una bella faccia Monica nella foto che ci ha mandato e che trovate sul nostro sito radio24.it, la nostra pagina Voi Siete Qui, dove trovate anche i brani che mandiamo in onda tutti i giorni, nel caso volesse saperlo. Ogni tanto qualcuno ci scrive: non dici mai i titoli delle canzoni, è vero, non le dico mai, però li trovate lì, insomma andate sulla nostra pagina, trovate tutto, trovate quindi i brani che abbiamo nato oggi e la foto di Monica che dallo schermo vi sorride. Pronto Monica? Matteo, buongiorno. Buongiorno, come stai? Molto bene, anche perché hai messo una delle mie canzoni preferite, di Anna Mura. Addirittura, guarda, fa tutto Tiziano Bonini, ma devo dire che è come se l'avessimo fatto insieme però. Desfado si chiama questo brano, giusto? Esatto, esatto. Tu pensa, che io mentre la mandavamo, gli ho detto a Tiziano, questo è Fado, giusto? E lui mi ha detto, no, questo è Fado contemporaneo. Sì. Tu com'è che lo conosci? Sei appassionata di Portogallo? No, sono appassionata di musica. Ah, ok. Quindi... è capitato di trovare Anna nelle mie ricerche. Ok, e ci sei inciampata, no, però non l'hai mai cantata con Luigi questa? Ragazzi, Luigi mi cantava delle canzoni che assolutamente sapeva solo lui, forse erano anche di un'altra epoca, quindi... Beh, a parte la Via in Rose, insomma, che un pochettino la conoscevamo. Dici qualche altro titolo che cantava Luigi? Che dirti, sicuramente qualcosa di portoghese legato non quanto al fado, ma a canzoni brasiliane. Penso João Gilberto, qualcosa di suo, non ricordo i titoli perché è passato un po' di tempo. Ma scusami, sappiamo qualcosa di più di questo signore? Oppure ci rimane impresso lì seduto sulle panchine del tuo giardino? Ma ti racconterò che questo personaggio io l'avevo già conosciuto quando facevo il liceo, perché lui aveva una vita un po' bizzarra e soleva utilizzare il treno per andare al mercato a prendere delle cose e utilizzava il treno per tornare al mercato di Novara con tutta una serie di cose che lui trovava al mercato da portare agli animali probabilmente che aveva nel suo cortile, nel suo giardino. E quindi già l'avevi incrociato in realtà? Sì, esattamente, era un personaggio già incrociato. Ma tu sei di Novara tu Monica? Sì. Ma hai fatto l'Antonelli? No, ho fatto liceo artistico. Ah, ok, nel senso che non ci conosciamo noi. Non ci conosciamo. Ok, mai, ok, no. Ho saputo novarese anche tu. Sì, no, perché quando Margherita mi ha detto che eri di Novara, Margherita, che invece è proprio del mio paese, mi diceva, beh, insomma, la conosceremo sicuro. E invece no. Senti, questa roba del ginkgo biloba, che è un fossile vivente, è vero che è sopravvissuto alla bomba di Hiroshima? Sì, se guardi anche su Wikipedia, che tecnicamente non mente mai, lo dice. E poi volevo dirti che ho sentito un ginkgo biloba perfetto, però un liquidambar siracusa. Ecco, ti ringrazio, guarda, se mi ripronunci esattamente, aspetta che la cerco, quella che hai appena detto. Liquidambar siracusa. E che cos'è esattamente? È una bellissima pianta che tra l'altro io utilizzo moltissimo nei giardini terapeutici che realizzo, perché ha queste coloriture stupende, soprattutto quando si spoglia, quando tende d'autunno a spogliarsi, colori gialli, viola, rossi, bordeaux, è veramente un colpo d'occhio, soprattutto necessario quando si fa una progettazione dove gli stimoli sensoriali, anche quelli della vista, devono essere sollecitati. Tra l'altro però questa cosa dei nomi botanici, che sono bellissimi i nomi delle piante originali, però tipo ho scoperto recentemente che il gelsomino si chiama Rhynchospermum, giusto? Esattamente. Cioè, però per tutti è il gelsomino banalmente. Sono andato in un negozio in un garden e c'è il sito Rhynchospermum, dice no guardi, a me serve il gelsomino. Appunto. Senti, parlami invece di questi giardini terapeutici, cioè spiegami che cos'è un giardino terapeutico. Un giardino terapeutico intanto va detto che sono giardini un po' particolari, perché sono dedicati ovviamente a persone con fragilità, ma in generale poi possono essere dedicati anche realizzati per tutti, no? Non solo per persone fragili, magari persone degenti all'interno sì. di ospedali o in case di cura, ma magari anche poi per i parenti, per il personale medico-sanitario che utilizza le strutture. Ma quindi terapeutico da quale punto di vista, Monica? Dal punto di vista generale, se vogliamo, dello stato di benessere di una persona, chiaramente, okay. Chiaramente se all'interno di un giardino terapeutico ci sono degli spazi dove poter fare una serie di attività, diventa oltre che una, come dire, un utilizzo passivo del giardino, c'è anche un utilizzo attivo e conseguentemente anche dei riscontri benefici anche in questo senso. Ma tipo attività tipo potare? Tipo potare, tipo raccogliere che le è una cose. Cosa che mi affascina molto, perché l'idea di tagliare mi piace, però ho sempre paura di sbagliare. La potatura va fatta ad esempio in un certo periodo, dipende da pianta a pianta, giusto? Sì, okay. Sì, e va fatta fare da chi sa fare. Da chi sa fare la potatura, ti ringrazio per avermi chiarito la cosa. Com'è che si finisce a disegnare i giardini terapeutici? Che studi hai fatto? Io sono specializzata e diciamo all'Università di Agrari è stato fatto anni fa un corso di specializzazione che prosegue ancora oggi in Inning Garden. Poi col tempo l'occasione ha voluto che io approfondissi anche attraverso la progettazione quel giardino, in particolar modo quello dove Luigi è stato sì. per qualche tempo, è stato il mio primo giardino in provincia di Novara appunto. Okay. E a seguito ne sono arrivati altri, quindi un giardino Alzheimer per esempio, quindi anche un po' più specifico, dedicato Chiaro. A una malattia un po' particolare. Certo, Monica, purtroppo devo salutarti, però me lo dai un indirizzo che voglio andare a vedere le cose che fai? Sì, ti devo dare un www. Dammi un www. www.monicabotta.com. Perfetto, lo mettiamo anche su Facebook. Monica, grazie mille. Grazie a voi per l'attenzione. Ciao, a presto, ciao, grazie. Ciao. Stiamo chiudendo, ma per i messaggi fuori contesto, un messaggio che ci riporta, diciamo, a una storia, una sorta di storia nascente di questo programma, che dice: lo so che non c'entra, ma sai che oggi a scuola è successo un episodio uguale a quello di Scagnolari? E sai che proprio ieri ho avuto un contatto da Massimo Neriotti, o anche il Polpo, di cui io parlerò in futuro. Grazie a tutti, grazie a Paolino Corleone, Tiziano Bonini, Margherita Ina, grazie soprattutto a Monica, perché la storia di oggi era la sua e anche lei è un punto rosso su una mappa. Sono Emanuele, vivo a Cuneo. La storia di lunedì è la mia, che parla del topless al campeggio. Questa è la mia storia e io sono qui.